Persone stupide, avrai occasione di incontrarne sempre pure troppe. Devi combattere per evitare che siano presto tutti al posto di comando. Amico mio, lo so, ci vuole un bel coraggio e c'è anche il rischio di trovarsi soli, ma scoprirai che avere accanto solo veri amici ti darà una forza grande che potrai sentire solo tu. Il tuo cuore è libero. Regole, quelle che devi rispettare nei rapporti umani, la maggior parte inutili, alcune invece essenziali ad evitar problemi. Amica mia, ti sei accorta che quel mondo di fighetti in cui ti sei ficcata non fa per te, che quella favola perfetta verso sera sera già squagliata e dentro c'era solo il tuo cuore è libero.